Allora, com'è andata la giornata? Passiamo un zucchero, sai che mi piace il limone col zucchero? Madonna mia, c'ho la schiena a pezzi. Mi sono caricato l'ere di oggi. E vi qua, mettete a sedere in minuto. E fai piano, che i ragazzini dormono. Ci sono andati a scuola oggi? Sì, sì. Sì, sì? Pure Cristian c'è andato. Guarda che se non c'è andato, ho visto da botte. Ma quali botte? La devi smettere di alzare le mani, quello è piccolo. Ma quale piccolo? Se fa uomo. Allora, c'è andato o no, Sofia della Mignotta? Io mi spacco la schiena per mannaggia. Te non ci sei andato a scuola? E che vuol dire io ci sono andato? Io ci sono andato, ma loro ci devono andare. O poi che si alzano alle 4 della mattina, vanno a fare i facchini pure loro. Parli come tuo padre. Che c'è da dire, mio padre? Tu non sei come tuo padre. Che vuol dire non so come mio padre? Che non sei come lui. Non lo so. Alessandro, pure oggi non mi ha salutato. Ci sono rimasto apposta di più una volta per vedere se veniva a salutarmi e non è venuto. Quei ragazzi non vengono bene. Ma chi non ti vuole bene? No, non vengo bene. Mi vengono tutti a salutare, Edoardo. Pure Cristian mi ha salutato. E lui no. Ma te pare? Vacci te a salutarlo, no? Come ci vado io? È lui che deve venire. Se deve... Se deve fa uomo. Se deve fa uomo, sì. Meno male che l'ultima è nata femmina. Meno male. Dai, mo piano. Fai piano, che i ragazzini ci sentono. Che colpa mia se mi resiste. Ma levati! Beh, non è vero, poi va bene. Ma ce l'avevi la schiena rovinata? La schiena rovinata? Beh, che ciò, sai che la notte fa il miracolo. Dai, che qua comincia la spugnata. Ma no, ma qua in cucina. Dai, ma se si alzano! Dai! Vieni qua, dai! Non è colpa mia. Lo dicono tutti i ragazzini quando gli sgridi. Quel giorno stavo a guidare, c'erano i due maschi dietro, i grandi, 12-13 anni, litigavano, strillavano, facevano casino, come fanno tutti i ragazzini quando giocano, quello piccolo via in giro quello grande e l'altro gli menava, carci, pugni, pensavano a sfondare il sedile. Alessà, smettila, io dicevo, stanno a sfondare la macchina, ma non è colpa mia, è lui che mi prende per culo, lui ti prende per culo ma sei te che stai a menà. Guarda, guarda che se non la fai finita mi fermo e te faccio nero. Più alzava le mani e più Cristian stuzzicava, rideva, si divertiva. Storpio, gli diceva. Storpio te ce faccio diventare, diceva l'altra, giubbotte. Oh, la volete finire, porca puttana? Mi fate andare fuori strada, mi fate sbandare, porca mignotta. Siete delle bestie, siete, aspettate che arriviamo. E ve gonfio de botte, ve le do che Dio ve manna. Non è colpa mia, non è colpa mia. A un certo punto gli ho preso il braccio per farlo smettere. Io ho stretto forte, gli ho fatto male. E lui del sintomo mi ha dato uno schiaffo. Che cazzo fai? Vieni a tuo padre. Ma come ti permetti? Come ti permetti dal sangue? Ma non me levo la cinghia, te spello a cinghiate. Mi sono girato un bestialito. Mi sono distratta, la macchina ha sbandato e c'è stato incidente. Non è colpa mia. Da quel giorno sento solo questo nella testa. Qualunque cosa faccio, da quasi 30 anni ormai, sempre, continuamente, la sento. Sento mio figlio che me lo dice. Anche adesso, mentre mi guarda e sta zitto, lo sento che mi grida che la voce sola quando era piccolo. Non è colpa mia. È lui che mi prende in giro. Non è colpa mia se te sei girato e sta andando a sbatte. Non è colpa mia se mio fratello è morto. Lui lo grida. Ma io non rispondo. Non gli so dire che no, che certo, che non è colpa mia, colpa sua. Non ne so capace, non lo so neanche abbracciare. Come non lo sapevo fare quando era piccolo. Quando non veniva a salutarmi, io lo alzavo sulla porta ad aspettare. Muoio così, inchiodata a sta porta, continuando a sentire la voce di Cristian che prende per il culo. E la sua. Sai perché ti ho dato quello schiaffo quel giorno? Perché ti odiavo, perché tutte le notti non dormivo, perché ti sentivo mentre parlavi con mamma. Sto ragazzino non me va bene, non mi saluta mai, gli dicevi. E io sentivo e morivo tutte le sere, come può morire un bambino, in silenzio. Mille notti mi hai ucciso e ancora adesso non dormo. Adesso che mi viene in sogno e non mi parli. I bambini non dimenticano mai, lo dovresti sapere. Ma io vorrei la pace. Dammi la pace, papà. anche se è tardi, anche da morto. Papà, me la puoi dare la pace da morto?